Dai, Yoschi, da dove ti ha rotto i coglioni questa storia di XXX? Allora, io spacco XXX, spacco troppo il cazzo questa storia di XXX, raga, XXX è il mio programma preferito, vaffanculo la televisione, tutte le altre radio, le merdate varie. Diglio, ma chi sono? Ragazzi, anche con la webcam. Io sono Oschi. Ah, era ora. Non so, tanto. Sto tremando. Non so, qualcuno mi prende la macchina. Oddio, Oschi, per XXX, ragazzi. Che è un casino. XXX Radio. Adesso milioni di persone. Questa è la voce della zona. Questa è la voce della zona. Questa è la voce di queste strade del merda. Oh, riaperta la macchina, dacci la Moretti.